Questo giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La presenza di un responsabile di governo è grave, vergognoso! Non lì in centro, ce ne sono un migliaio, ce ne sono. Però vergognoso! Non è più centro del danno. Il 90% dell'acqua è passata dalle case nostre. Non c'è un amministratore locale, non c'è nessuno! Vergognatevi! Rosa Marina, e l'audio che avete sentito è un audio in realtà che risale al marzo del 2011. Ginosa Marina nel Tarantino colpita un'altra volta da un'alluvione. È morta una donna, ci sono 3 dispersi per la pioggia violenta che ha colpito questa zona. Nel frattempo oggi c'è stato anche un nubifragio a Roma. All'Italia c'è un vertice in corso a Palazzo Chigi sulle ipotesi di salvataggio della compagnia, poi nel pomeriggio il consiglio di amministrazione, l'azienda ha bisogno di 500 milioni di liquidità. Scende ancora il potere d'acquisto delle famiglie, giù dell'1,7% nel primo semestre dell'anno. Confronto nella maggioranza sull'IMU e cantiere aperto per la legge di stabilità. Ospite ad effetto giorno il leader della UIL Angeletti. Immigrazione, si rafforza l'ipotesi di un progetto europeo, oggi riunione dei ministri degli interni e della giustizia, Malmström propone una grande operazione per il salvataggio dei profughi. Leggiamo, scriviamo e facciamo di conto peggio degli altri paesi OCSE, emerge da un'indagine diffusa oggi, tra poco intervista col sottosegretario all'istruzione, Rossi Doria. Il Giro d'Italia dedicato a Marco Pantani, per alcuni eroe del ciclismo, per altri figura molto più controversa. Cosa ne pensate? Ve lo chiediamo sulla nostra pagina www.facebook.com/effettogiorno. This year's prize is about something very small that makes all the difference. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2013 Nobel Prize. E però la nostra notizia di apertura ve la facciamo ascoltare con quest'audio di sottofondo, che è l'annuncio del premio Nobel per la fisica. Avete sentito la breaking news poco fa. Dunque, il Nobel per la fisica è stato assegnato a Peter Higgs e François Englert. Entrambi, in modo indipendente, si spiegano previsto l'esistenza della particella, il cosiddetto bosone di Higgs, grazie alle quale esiste la massa. Noi veniamo però in apertura vera e propria alla cronaca italiana, dunque a quello che è successo e sta succedendo a Ginosa in queste ore. Saluto il sindaco del comune, Vito De Palma, buongiorno. Buongiorno. Allora sindaco, le chiedo innanzitutto qual è la situazione al momento. Noi sappiamo di una persona che ha perso la vita, una donna di 30 anni e di 3 dispersi. Sì, purtroppo devo confermare questo dato e quindi non siamo ancora riusciti a recuperare le 3 persone disperse, sono anche loro 3 giovani. Anche loro 3 giovani. Allora, sindaco, qual è, com'è messo il paese, qual è la situazione? Vi state facendo adesso un'idea dei danni? Piove ancora? Ha smesso di piovere? No, diciamo che dalla mattinata di oggi non ha più piovuto. Più che fare una conta dei danni, stiamo dedicando la maggior parte delle nostre energie insieme a Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, tutte le forze di polizia alla ricerca dei 3 dispersi, battendo palmo a palmo tutto l'agro interessato da questa forza dell'acqua che ha di fatto sventrato una parte del nostro paese, l'agro. Noi abbiamo fatto sentire sindaco, come avrà sentito, non so se era già in linea, in apertura di questo nostro appuntamento, di questa nostra trasmissione, abbiamo fatto sentire un audio che risale in realtà a 2 anni fa ed è l'audio di un'altra alluvione che risale al marzo del 2011, sempre a Ginosa Marina. Allora sindaco, ci spiega che cosa è successo? Come mai non è stato fatto nulla? Com'è possibile? Quella volta la localizzazione degli eventi è differente. 2 anni fa fu a Marina di Ginosa e questa volta invece è stato a Ginosa. Che cosa è successo? È successo che qui il nubifragio è stato di proporzioni inaudite. Io non ho mai visto vita mia, tant'acqua riversarsi con una furia e una potenza da distruggere ponti, strade e portare via tutto ciò che ha trovato lungo il suo cammino. Purtroppo, insomma, queste cose hanno bisogno di una verifica tecnica con gli enti preposti e verificheremo che cosa sia successo. Il carattere di eccezionalità comunque è da mettere in conto. Grazie a Vito De Palma, sindaco del comune di Ginosa. Magari torneremo a collegarci con lei nel corso della giornata, torneremo a risentirla per sentire qual è la situazione. Nel frattempo anche un violento nubifragio si è abbattuto anche su Roma. Noi però passiamo a parlare, in realtà restiamo a Roma, per parlare di Alitalia. Questa mattina nuovo confronto a Palazzo Chigi, mentre nel pomeriggio si svolgerà il consiglio d'amministrazione della compagnia. Ci racconta tutto in diretta Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Ore decisive per il salvataggio di Alitalia. È in corso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, vertici dell'azienda, banche e azionisti dopo la riunione di ieri che invece ha portato a nulla di fatto. Si continua dunque a lavorare a oltranza per far uscire dalle secche la compagnia, mentre nel pomeriggio, a meno di slittamenti, è previsto un CDA dell'azienda e l'ENAC, l'ente nazionale della aviazione civile, dovrebbe convocare a breve Alitalia per verificare se sussistano le condizioni di continuità aziendale. Al momento la strada che l'esecutivo sembra deciso a percorrere è quella di supportare la compagnia in vista di quella che appare la soluzione più realistica, cioè l'integrazione con Air France, una strada che dovrebbe prevedere il coinvolgimento di un soggetto pubblico, il quale però non sembra avere ancora un nome. I riflettori ieri erano puntati sulle Ferrovie dello Stato per un possibile intervento in Alitalia e per tutta la giornata si erano inseguite voci di una possibile presenza all'incontro dell'amministratore delegato Moretti, ma il numero uno della holding, secondo quanto si sarebbe recato a Palazzo Chigi solo prima, avrebbe avuto alcuni colloqui separati con esponenti del governo. L'ipotesi di un coinvolgimento di FS viene comunque smentita dal ministro delle infrastrutture. Il governo, dice Lupi, non ha mai proposto l'ingresso di FS in Alitalia. Ma intanto, come sappiamo, il tempo stringe, occorre dare una boccata d'ossigeno a un'azienda che, secondo alcune fonti, rischia di dover portare i libri in tribunale tra due settimane se non si troveranno 500 milioni di euro di capitali freschi. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, e noi chiediamo conferma di questi numeri al collega del Sole 24 Ore che segue le vicende di Alitalia direi da parecchio tempo, Gianni Dragoni, buongiorno. Buongiorno. Allora, quali sono? Le cifre sono queste più o meno, sì? Sì, i numeri sono drammatici, ormai anche l'Alitalia CAI è come se fosse tecnicamente una bad company, è in condizioni di insolvenza. La relazione sui conti semestrali approvata 10 giorni fa dal Consiglio di amministrazione dice, parliamo dei dati al 30 giugno, ma dice che è a rischio il pagamento degli stipendi se non arriverà rapidamente un'iniezione di cassa, e questa cassa dovrebbe essere appunto di 500 milioni, ma 300, ora poi sono scesi un po', 200 milioni vengono chiesti alle banche e il resto dovrebbero metterli i soci in varie forme, ma diciamo sostanzialmente i soci. E il problema è che quasi tutti i soci italiani non hanno più la possibilità o non vogliono mettere altri soldi dentro l'Alitalia, li metterebbe Air France, però tutto questo è condizionato a un fondo complessivo, a un piano anche di ristrutturazione, ma e quindi non si vede una soluzione a breve, anche se gli incontri proseguono anche oggi. Vedremo che cosa succederà dunque nel corso di questa giornata e attendiamo evidentemente notizie da Palazzo Chigi. Noi restiamo però sui temi economici, grazie a Gianni Dragoni naturalmente, perché ci sono i dati dell'Istat di oggi. Nei primi 6 mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012 il potere d'acquisto delle famiglie ha registrato un calo dell'1,7%. E ancora, nel secondo trimestre del 2013 il reddito disponibile è diminuito al netto della stagionalità dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. Pesante anche il dato sulla pressione fiscale, che nel secondo trimestre dell'anno si è attestata al 43,8% con un rialzo di 1,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Infine si fa per dire, perché adesso si ragiona sulla legge di stabilità, i conti pubblici. Il rapporto deficit-PIL nel primo trimestre è calato al 4,1% rispetto al 4,4 dello stesso periodo del 2012 e al 7,3 del primo trimestre. Legge di stabilità, si diceva, giornata intensa anche oggi a Palazzo Chigi, dove ieri il governo ha incontrato i sindacati per discutere proprio appunto della legge di stabilità e oggi vedrà le associazioni datoriali a partire da Confindustria. Tra poco avremo in diretta il leader della UIL, Luigi Angeletti. Ci colleghiamo nel frattempo col nostro Vincenzo Miglietta da Montecitorio, perché ci sono novità anche sulla vicenda IMU, che è pure questione politica. Vincenzo, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Dibattito sull'IMU apertissimo, vista anche la concomitanza dei lavori delle commissioni bilancio e finanze chiamate a votare proprio oggi contestati emendamenti. Sotto i riflettori la proposta di modifica a firma PD e Scelta Civica, che rimetterebbe in discussione le delicate intese di governo prevedendo che le fasce medio-alte paghino l'imposta e quindi anche la prima rata di giugno. Staremo a vedere quanto accade in commissione, ma sembra che si vada comunque verso un passo indietro. La conferma arriva dal presidente della commissione bilancio Boccia, intervenuto a Mix 24 di Giovanni Minoli. Ascoltiamo allora questo passaggio. Alla fine questo emendamento viene tolto o resta? Io penso che sarà ritirato. Io ho fatto un appello ieri ai colleghi per un invito al ritiro, perché semplicemente i comuni destinatari di quelle risorse hanno già incassato dal governo quelle risorse. E quindi se va ritirato, diciamo che Alfano batte Letta 1-0, più o meno. No, io direi che quella partita finisce sempre in pareggio. In pareggio vince il paese. E così Boccia, presidente della Commissione Bilancio. Altro capitolo, la legge di stabilità che sarà presentata il prossimo 15 ottobre. Nel pomeriggio gli incontri del Premier Letta, prima con Confindustria, poi con l'ABI. Ieri il testo nelle sue linee generali è stato illustrato ai sindacati. Si sta cercando un compromesso su cuneo fiscale, nuovi incentivi al lavoro, la nuova service tax, la riforma delle aliquote IVA, il rifinanziamento delle spese indifferibili. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Il punto di Stefano Folli. Che in Parlamento si litighi di nuovo sull'IMU e sugli emendamenti relativi non stupisce più di tanto. Il voto di fiducia a Letta della scorsa settimana non significa la fine di ogni tensione all'interno della maggioranza e tantomeno l'inizio dell'armonia universale fra PD e PDL. Semmai colpisce la tentazione, nemmeno troppo velata in certi ambienti del Partito Democratico, di considerarsi i vincitori della partita politica, come se l'uscita di scena di Berlusconi avesse trasformato un governo di coalizione in un esecutivo in cui conta solo la voce del PD sull'IMU e su altri temi. Non è così e lo si vedrà presto, quando la guerra degli emendamenti finirà e si dovrà trovare un punto di equilibrio. Quale possa essere dipende dal Presidente del Consiglio e dalla sua capacità di sfruttare a dovere l'asse con Alfano, cioè con il PDL post Berlusconi, che cerca ancora una propria identità, ma non è così lontano dal trovarla. E torniamo adesso a parlare di immigrazione, una grande operazione Frontex per il salvataggio sicuro dei profughi da Cipro alla Spagna, quanto il commissario europeo Cecilia Malmström chiederà di sostenere agli Stati membri oggi nel corso del Consiglio Affari Interni Europei, che si svolge in Lussemburgo. Sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore. Il governo italiano cercherà oggi di sensibilizzare i partner europei sulla necessità che il tema dell'immigrazione diventi una responsabilità condivisa con una nuova suddivisione dei compiti. Alla riunione dei ministri degli interni dell'Unione partecipa il ministro Angelino Alfano. Secondo un diplomatico, Alfano coglierà l'occasione per chiedere prima di tutto un rafforzamento di Frontex, l'agenzia europea che coordina il lavoro delle autorità nazionali nel controllo delle frontiere esterne dell'Unione. L'Italia poi chiederà un coordinamento con le organizzazioni internazionali come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. E infine vorrà anche cercare di ottenere un rilancio degli accordi di partenariato con i paesi del sud del Mediterraneo. Difficilmente il governo italiano riuscirà però a convincere i partner europei a modificare la regola di Dublino, secondo la quale la richiesta d'asilo deve essere presentata nel paese di primo arrivo dell'Unione Europea. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. In chiusura di questa prima parte parliamo di ciclismo. Pantani con Babiole, può essere questo il momento decisivo? Io penso di sì, Pantani mani basse, Ulri continua a voltarsi, ormai da solo potrebbe partire Pantani, se sta bene parte adesso, eccolo, difatti parte. Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di Pantani. Sto parlando di Marco Pantani perché il Giro d'Italia di quest'anno è dedicato a lui, vi stiamo chiedendo sulla nostra pagina Facebook se è giusto, perché insomma figura straordinaria ma anche controversa per molti aspetti. Ci scrivete: Pantani fu un grande, tutti sapevano che tutti si aiutavano, il ciclismo, ci dice Luca Cornetta, deve decidere se sposare la tesi di Armstrong e Durick o se ripudiare gli ultimi 20 anni della sua storia. Dario Ceccarelli, cosa dici tu invece? Ma tanto sentire queste voci così scalda un po', cioè fa venire delle emozioni, perché era così, è stata un'epopea indimenticabile. Purtroppo però devo dire, con tutto il rispetto, perché c'è di mezzo una vita spazzata via, ricordiamo che Pantani è morto 10 anni fa in modo tristissimo in un albergo di Rimini per overdose di cocaina. Ecco, ci spiace dirlo, ma dedicare una corsa come Giro d'Italia a Pantani non mi sembra una cosa giusta, perché per quanto Pantani sia stato amato, per quanto abbia incatenato il cuore della gente, resta Pantani un campione pieno di luci ma anche di ombre. La sua tragica fine non deve farcelo dimenticare. Certo, Dario, tu mi dicevi prima, abbiamo 20 secondi, meglio Bartali a questo punto. Ma ecco, se proprio si voleva dedicarlo a una figura esemplare, visto anche che ricorre nel 2014 il centenario della nascita, forse era proprio meglio dedicarlo a Bartali, grande ginettaccio, campione dei giusti per aver salvato centinaia di ebrei durante l'occupazione nazista, e quindi sarebbe stato un bel riconoscimento a un atleta che è stato anche un uomo straordinario, di quelli che si è perso un po' lo stampino. Grazie Dario Ceccarelli, noi adesso abbiamo la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo, sentiremo Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, per parlare un po' della manovra, soprattutto, no? Di questa manovra che si profila all'orizzonte del confronto sulla politica economica. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In Puglia è morta una donna, ci sono 3 dispersi per la pioggia violenta che ha colpito la zona del Tarantino, Ginosa in particolare, nubifragio intanto a Roma. All'Italia, vertice in corso a Palazzo Chigi sulle ipotesi di salvataggio della compagnia che ha bisogno di 500 milioni di liquidità. Scende ancora il potere d'acquisto delle famiglie, giù dell'1,7% nel primo semestre dell'anno, confronto nella maggioranza sull'IMU e cantiere aperto per la legge di stabilità. Immigrazione, si rafforza l'ipotesi di un progetto europeo, oggi riunione dei ministri degli interni e della giustizia. Leggiamo, scriviamo e facciamo di conto peggio degli altri paesi OCSE, emerge da un'indagine diffusa oggi, tra poco sentiremo il sottosegretario all'istruzione Rossi Doria. E apriamo adesso invece il capitolo sulla manovra, sulla legge di stabilità. Ieri il primo confronto del governo con i sindacati. Saluto Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, buongiorno. Buongiorno. Allora, che impressione le fa questo governo delle larghe intese dal lato della politica economica, Angeletti? L'ha convinta fino adesso? No, fino adesso non ci ha convinti. Ovviamente hanno ancora qualche giorno a disposizione prima di varare la legge sulla stabilità e francamente mi auguro che facciano tesoro di ciò che abbiamo sostenuto noi, che sostiene la stessa Confindustria e praticamente tutto il mondo che si occupa ancora delle vicende italiane, per la quale la vera manovra per avere sul serio una speranza di riprendere un percorso positivo della nostra economia è quella di ridurre le tasse sul lavoro. E ovviamente non può essere una questione simbolica, perché la questione simbolica assomiglierebbe molto quasi ad una presa in giro. Ecco, sto parlando della quantità necessaria di riduzione di tasse. Ecco, qua stanno le cifre che stanno circolando, si parla di 4-5 miliardi, secondo i calcoli che ha fatto qualcuno, in media vuol dire un caffè al giorno, no, in busta paga per gli italiani. 4-5 miliardi è poco, quindi, immagino, secondo la vostra valutazione. Sicuramente, anche perché hanno fatto il calcolo sbagliato, è molto meno di un caffè al giorno. Un caffè al giorno significherebbe per esempio avere una riduzione per persona mediamente di 400 euro, non di 100 neanche di 200. E quanto, che dimensione auspicate? Cioè la dimensione data da Confindustria, quindi diciamo almeno 8 miliardi, 10 miliardi, insomma su quelle cifre là, secondo voi potrebbe essere un primo passo quantomeno? Sì, il primo passo, che non assomiglia appunto ad una finta, è appunto di 10 miliardi di riduzione di tasse sul lavoro. 10 miliardi quindi potrebbe essere un'ipotesi buona. Il punto sulle risorse, perché naturalmente il problema è quello, Angeletti, da dove si tirano fuori questi soldi? Allora, noi abbiamo anche in maniera abbastanza dettagliata, non voglio farvi perdere tempo, indicato al governo delle riduzioni della spesa che si possono fare, perché sono veri e propri sprechi, in base ai quali si potrebbero trovare 4-5 miliardi nel giro di poche, facendo cose normali, diciamo così, facilissime, come per esempio quello di rendere obbligatorio il fatto che le acquisti della pubblica amministrazione vengano a prezzi di mercato, no? E non pagandoli 4-5 volte, come avviene oggi. E abbiamo 30.000 stazioni appaltanti, cioè una cosa unica al mondo. Oppure, eliminando molte imprese inutili, cioè che non hanno nessuno scopo salvo quello di dare del compensi agli amministratori. Quindi questa è la vostra opinione. Ho un'ultima domanda: se non vi convincerà il governo, siete pronti ad una mobilitazione? Sicuramente, stiamo già pensando. Unitaria? Unitaria. Siete pronti ad una mobilitazione unitaria? Avete un ultimatum da dare al governo, visto i tempi sono strettissimi, cioè teoricamente la legge di stabilità va presentata entro 5 giorni, in tutta teoria, 7 giorni, scusi. Sì, esatto, non è che diamo noi degli ultimatum, è evidente che martedì prossimo è convocato il Consiglio dei Ministri per parlare della legge di stabilità, quindi non è che noi diamo un ultimatum, ma è il governo che sa che gli sono rimasti 3 o 4 giorni per fare sul serio un'inversione della politica economica. Grazie a Luigi Angeletti, segretario generale della UIL. Volevamo fargli anche una domanda su Alitalia, in realtà, però come vede le cose non sono ancora arrivate. Però guardi, una cosetta, un pensiero ce l'ha fatto su questa vicenda, pensa che lo Stato debba intervenire? Dovremmo fare una riflessione opposta, lasciamo per un attimo se è possibile di discutere, di evitare di parlare di aria. Parliamo dei collegamenti dell'Italia con il resto del mondo. E qual è la soluzione? E qual è la soluzione? E la soluzione ovviamente è fare accordi con altri partner che ci diano questa garanzia. Non c'è nessun motivo per accettare soluzioni per le quali lei e io o qualunque altro italiano per andare a New York devono fare il giro dell'Europa, oppure un cinese che vuole venire a visitare il Colosseo è costretto a fare il giro dell'Europa prima di arrivare a Roma. Ma non ho capito, però l'intervento dello Stato lo ritiene auspicabile lei o no? Io credo che non è auspicabile, lo considero allo stato dei fatti necessario. E probabilmente bisognerebbe fare una cosa un po' più strutturata, che non sia banalmente quella di dare soldi, ma per esempio di fare un accordo infrastrutturale tra le reti ferroviarie e le reti aeree. Grazie Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro, naturalmente. Mi ha raggiunto invece nel frattempo in studio Salvatore Carruba del Sole 24 Ore. Buongiorno Salvatore, ciao, benvenuto. Simone. Allora, noi ci siamo già sentiti in realtà la settimana scorsa per altre questioni, però rimaniamo naturalmente in un tema che ti riguarda e che tratti quotidianamente, che è quello della cultura. Nella fattispecie parliamo di teatri, perché oggi hai scritto un commento, un'analisi che conteneva in sé molte notizie anche per quanto riguarda il decreto che riguarda i teatri. Allora, ci spieghi innanzitutto che cos'è e molto brevemente quali sono i punti nodali di questo decreto? Il punto essenziale è che ancora prima di questo decreto, ancora con il governo Berlusconi, erano stati equiparati ai fini della catalogazione dell'Istat i teatri stabili a tutte le pubbliche amministrazioni. Questo vuol dire che i teatri ricadono adesso nei meccanismi di spending review, per cui per esempio non possono fare pubblicità, devono tagliare i consigli d'amministrazione, devono addirittura fare fare delle gare per ottenere delle sponsorizzazioni. Se i teatri diventano degli enti pubblici, degli uffici pubblici, non solo si contraddice la tendenza che era stata degli ultimi anni, ma si mette uno sbarramento assoluto a quello che tutti invocano, cioè al fatto che i privati possano intervenire nella cultura. Il piccolo teatro di Milano ha diversi soci privati che siedono in consiglio d'amministrazione. Se gli si va a dire: no, scusi, lei adesso dal consiglio d'amministrazione se ne deve andare, questo privato non avrà più alcuna possibilità di controllare come vengono investiti i propri soldi e quindi non investirà più sul piccolo teatro. Quindi, ripeto, un meccanismo molto pericoloso che denota uno statalismo di ritorno, una burocratizzazione della vita dei teatri che contraddice poi a determinati risultati, perché fra l'altro il piccolo teatro, ricordo, ha ottenuto dei risultati di bilancio buoni, da 15 anni chiude il bilancio in pareggio e quindi non è neanche un ente particolarmente dispendioso alle casse dello Stato. Come interviene la nuova legge, il nuovo decreto appena varato, Salvatore? Il nuovo decreto non è intervenuto, questo è il punto, perché si aspettava che facessero un emendamento al quale anche il ministro Brai all'inizio aveva detto di essere favorevole. In realtà le modifiche sono state minime e addirittura il decreto ha aggravato la condizione di altri soggetti, per esempio le fondazioni liriche, la Scala, quindi anche lì diventano sottoposti al controllo dello Stato, molto più stringenti di prima, non c'è più il consiglio di amministrazione, c'è soltanto un consiglio di indirizzo che è ridotto quanto ai numeri e quindi di nuovo i privati avranno delle difficoltà a poter partecipare e quindi tradendo quello che era lo spirito della riforma di alcuni anni fa, cioè la trasformazione in soggetti privati come fondazioni. Si dice che quella riforma è stata tradita dal fatto che non ha funzionato perché molte fondazioni liriche hanno i conti in dissesto e questo è vero, ma di nuovo perché se la Scala va bene, come va bene, se non con risultati molto meno drammatici di tutti gli altri teatri, lo si deve trattare esattamente come gli altri teatri. Questo è il punto. Il punto, quindi, per dirla brutalmente, è l'equiparazione tra soggetti meritevoli e soggetti che merito non ne hanno. Certamente, diciamo, fra soggetti che in questi anni hanno costruito dei percorsi di governance virtuosa, appunto il piccolo teatro e la Scala, ma c'è anche l'Accademia di Santa Cecilia che è nelle stesse condizioni virtuose della Scala di Milano, e che vengono brutalmente equiparati a dei soggetti pubblici e a teatri che hanno maggiori difficoltà e che evidentemente sono in situazioni che meritano di essere affrontati con strumenti diversi. Grazie Salvatore Caruba, grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo per una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, sentiremo tra gli altri anche il sottosegretario all'istruzione Marco Rossidoria su questi dati dell'OCSE molto pesanti per il nostro paese. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Confronto nella maggioranza sull'IMU, è aperto il cantiere sulla legge di stabilità. Angeletti dice ad effetto giorno taglio del cuneo da almeno 10 miliardi. Il governo risponde: sarà mobilitazione unitaria. In Puglia muore una donna e ci sono 3 dispersi per la pioggia violenta che ha colpito la zona del Tarantino. Il Nobel per la fisica è stato assegnato al belga François Englert dell'Università di Bruxelles e a Peter Higgs dell'Università di Edimburgo. Entrambi, in modo indipendente, hanno previsto l'esistenza della particella grazie alla quale esiste la massa, il bosone di Higgs, appunto. Parla Alfano sull'immigrazione: ci vuole un piano d'azione europeo, l'Europa si deve impegnare di più nel salvataggio di vite umane, e dice: non discutiamo ora della Bossi-Fini, non bisogna rompere il fronte nazionale. Leggiamo, scriviamo e facciamo di conto peggio degli altri paesi OCSE, emerge da un'indagine diffusa oggi. All'Italia, vertice in corso a Palazzo Chigi sulle ipotesi di salvataggio della compagnia, poi nel pomeriggio il consiglio di amministrazione. L'azienda ha bisogno di 500 milioni di liquidità. E veniamo alla politica economica in apertura di questa seconda parte di Effetto Giorno. Saluto il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, benvenuto. Buongiorno a voi. Eccolo qua. Allora, ha sentito probabilmente anche dai nostri titoli, abbiamo avuto ospite poco fa il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti, dice il taglio del cuneo fiscale, ossia delle tasse sul lavoro, deve essere da almeno 10 miliardi. L'idea è un po' che i 4-5 miliardi che si stanno immaginando siano per così dire, e ci consenta la forzatura, acqua fresca. Ci sono possibilità, secondo lei, che questa cifra si alzi nel corso di redazione della legge di stabilità? No, penso che bisogna affrontare il tema a rovescio, cioè prima bisogna decidere quali sono i provvedimenti che consideriamo più urgenti e indispensabili sul fronte della crescita e sul fronte della tutela del reddito e del lavoro, di quelli realizzare delle quantificazioni. Ricordo che noi abbiamo almeno tre capitoli davanti a noi: uno è questo del cuneo, l'altro sono il patto di stabilità dei comuni per liberare energie bloccate, e il terzo è un'attenzione doverosa al disagio sociale che sta aumentando. Quindi sono tutti tre temi che stanno tra l'emergenza economica e l'emergenza sociale, e quindi a tutti e tre dobbiamo dare una risposta. Però, mi scusi se insisto, questi 4-5 miliardi rischiano di rappresentare un intervento non abbastanza efficace. Io capisco la necessità di ragionare in termini più complessi, però tutte le parti sociali vi dicono ci vogliono più soldi. Dipende dalla finalizzazione, per la verità. Poi è chiaro che più risorse si trovano e più siamo in grado di aiutare complessivamente il rilancio economico, però dipende molto anche dalla finalizzazione delle risorse che si hanno disponibili. È chiaro che se noi pensiamo a un intervento prioritario sul lavoro e contemporaneamente ad un intervento analogo sull'impresa, le cifre si moltiplicano, quindi non me la sentirei, pur capendo esattamente la posizione delle parti sociali, dei sindacati e dell'impresa, insomma non me la sentirei, ecco, se mi permette di dire acqua fresca. Direi che sarebbe comunque un primo intervento significativo. La vera domanda che ci dobbiamo fare è se noi siamo in grado di fare un'operazione che sia anche graduale ma strutturale. Quello che io escluderei sarebbero soluzioni una tantum, ma soluzioni che invece, pur gradualmente in crescita, siano però definitive, che non sia un beneficio preso una volta e basta, ma che sia un beneficio che si ripete anno per anno, che si ripete nel tempo. Questa, la qualificazione di questa scelta è fondamentale, perché io potrei dare di più, ma una volta e basta, o invece pensare a una crescita in progressione, ma che poi mi resti per sempre nella busta paga o nella riduzione delle tasse sull'impresa. Ultima domanda, le chiedo di essere molto breve sulla questione IMU, che è ancora aperta in queste ore. C'è quell'emendamento presentato da alcuni esponenti del Partito Democratico, oggi Boccia ha detto penso che sarà ritirato. Da questo punto di vista come la vede? Pensa che comunque vada rimodulata questa l'IMU, in particolare la seconda rata IMU, mi riferisco? Io sono stato in commissione questa mattina e ho risposto alle due domande inerenti a questa discussione. La prima è se i conti pubblici sono in ordine, quindi una tranquillità sul resto del 2013, e mi pare che si possa dire di sì con le difficoltà generali. E la seconda è se la service tax avrà una componente patrimoniale e se questa sarà progressiva. La risposta che io ho dato è una risposta positiva, mi sembra che questo abbia dato una certa soddisfazione agli interroganti, e quindi penso che si vada verso una soluzione diciamo condivisa del problema. Arriverete ad una soluzione. Sarà ritirato l'emendamento? Questo spetta ai proponenti dirlo. Grazie per Paolo Baretta, sottosegretario all'economia, e io saluto a questo punto un altro sottosegretario, in realtà, che è Marco Rossi Doria, che è sottosegretario all'istruzione. Buongiorno. Buongiorno. Allora abbiamo poco tempo, però c'è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, che sono questi dati diffusi oggi dall'OCSE. L'Italia è ultima per competenze alfabetiche, ossia capacità linguistiche ed espressive fondamentali per vivere e lavorare ai nostri giorni, mentre risulta penultima in matematica, indagine su 24 paesi dell'OCSE. Le chiedo un commento, sottosegretario, perché questa sono poi se ci interroghiamo sui motivi del declino, no? Prego. No, sono di ritorno da Istanbul, dove ho rappresentato l'Italia alla conferenza informale dei ministri proprio su questi dati, che sono stati segretati fino a stamattina. Questi sono dati sulla